Allora, questa è l'antropologia culturale del, quando arriviamo qua, 4, del 4 maggio 2012. Allora, siamo sempre, ovviamente non ce la faremo ad arrivare in maniera completa all'antropologia contemporanea, anche perché l'antropologia contemporanea è comunque caratterizzata, nonostante la giovinezza, insomma, il carattere recente dell'antropologia, siamo già comunque, ma non da oggi, dagli anni 70-80 del secolo scorso, siamo già in una fase di sgretolamento e da un lato di allargamento generale, insomma, dell'antropologia, che è la più giovane tra le cosiddette scienze umane, è, insomma, diciamo, l'ultima nata, però siccome è l'ultima nata, siccome ha potuto e di fatto ha potuto utilizzare e di fatto ha utilizzato, integrato, rapinato, fuso insieme pezzetti, componenti delle scienze umane che esistevano da più tempo, non da tanto più tempo, insomma, soprattutto della linguistica, della sociologia, che era la sua parente più prossima, insomma, ma anche della linguistica, anche le altre cose, e oggi in maniera particolare della linguistica, insomma. Quindi in questa operazione di diciamo di incorporazione di altri piccoli pezzi di teorie locali provenienti dalle altre scienze umane, e però anche in un altro processo, che è quello di allargamento del proprio oggetto, adesso vedremo di cosa si tratta. L'antropologia ha finito, non è che ha finito, è in grande sviluppo, però insomma è approdata ad uno stato, ad una situazione, perlomeno quella contemporanea, che però dura, ripeto, da ormai più di 20, 30 anni, insomma, di confusione metodologica, di confusione di metodo. Appunto perché non è stata in grado o non è ancora in grado, insomma, diciamo, l'ottimista dice, non è, il pessimista dice non è stata in grado e non sarà mai in grado, l'ottimista dice non è stata in grado sinora di padroneggiare, di integrare questi vari apporti che le sono venuti da fuori, e soprattutto non è stata in grado di padroneggiare, di integrare l'allargamento del proprio oggetto. Ora, sull'allargamento dell'oggetto diciamo qualcosa che ci verrà utile anche poi per le lezioni successive. Questo in parte ve l'ho già. Sono due cose che credo in parte di avervi già, se non detto in maniera completa, ma di avervi già almeno accennato. Mentre la sociologia ha un oggetto, come dire, abbastanza largo, stabile, lo studio delle società umane, no? Perché finché ci sono uomini ci sarà sempre una società, quindi diciamo il materiale a cui può attingere la sociologia, tutto sommato è, insomma, ragguardevole, non dico illimitato, ma insomma, certo il sociologo privilegia in qualche modo sempre la dimensione del qui e ora, cioè va a studiare la società che gli è contemporanea, delle cose che gli succedono vicino, però si può fare anche una sociologia, si può anche fare un studio sociologico della società ateniese, della società romana classica, della società medievale, si può fare, ed è stato fatto, insomma. Però, diciamo, l'antropologia invece all'inizio nasce con si chiama antropologia perché lo sfondo è anthropos, lo sfondo è la questione generale dell'uomo, ma in realtà l'antropologia nasce da uno sviluppo della etnografia e della etnologia, cioè da uno studio delle società altre, diverse da quelle da quella occidentale di cui che è la società che fa parte l'antropologo, cioè il soggetto che studia, e società altre sia nello spazio che nel tempo, ma soprattutto sia nello spazio. L'antropologia nasce nel XIX secolo e nasce, abbiamo visto, dall'incontro materiale, reale, dell'uomo occidentale con gli uomini di altre culture che gli sono state sino a quel momento sconosciute, no? C'erano, ma lui non sapeva che ci fossero, o sapeva che c'erano, tipo le società del sud-est asiatico, anche quella cinese, eccetera, c'erano, ma i contatti erano talmente sporadici, sono stati così esili, così esigui, così pochi, così da un punto di vista numerico, anche dal punto di vista da non poterci costruire sopra, perché nulla, è soltanto nel corso del XVIII secolo e poi del XIX che la massa di dati comincia a essere sufficiente per farsi degli studi, anche sulla società cinese, su quella giapponese, su quella eccetera, per non parlare appunto di quelle scoperte direttamente nel XV, nel XVI secolo, come appunto le società di tutto il continente americano e poi dell'Australia, della Nuova Zelanda, eccetera, cioè le terre che non si sapeva che erano rimaste sconosciute a noi uomini occidentali, a noi esseri umani occidentali, sino all'inizio dell'epoca. Dell'epoca moderna. Ora, il paradosso dove sta? Che questa spinta verso lo studio, verso quindi l'abbraccio, la comprensione, la fratellanza, l'interesse comunque per queste culture qua, deriva alla stessa causa di una serie di effetti che sono esattamente contrari e opposti a quelli della comprensione, dell'interesse, che sono quelli della distruzione. È la stessa cultura, la cultura occidentale è al tempo stesso interessata all'esotico, alla dimensione dell'altro da sé, però contemporaneamente ha una dinamica interna, a prescindere dalla buona volontà delle singole persone, ha una dinamica interna per cui la deve distruggere, per cui deve inglobarla, fagocitarla e quindi legarla come altro, farla diventare un pezzo dell'Occidente, magari mantenendole certamente alcune caratteristiche folkloristiche vanno benissimo. Le danze indiane, abbiamo visto le danze dei Quakyut, le danze dei Nuchka, tutte queste cose vanno bene, però tollerate come una sorta di bizzarrie, ma dentro un quadro generale. Quindi voi capite che si tratta di due cose che si escludono per certi versi a vicenda. L'antropologia non può fare a meno di vivere dentro questa schizofrenia. La gran parte degli antropologi, quei pochi esempi che vi ho fatto finora, spero che vi abbiano convinto che a parte una prima fase molto, molto antica, insomma, di antropologia proprio puramente razzista, insomma, ma però in genere a partire da un certo punto in poi, dalla metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, l'antropologo è anche sinceramente interessato alla sopravvivenza di queste altre culture. In qualche maniera si trova trasportato addirittura, potremmo dire, in un moto di amore verso queste culture, le ama, gli vuole bene, diciamo l'interesse si colora anche di una affettività, non si possono passare mesi o anni, anche Malinowski, che poi è stato accusato, però in qualche maniera questi troviandesi ha finito in qualche maniera per amarli, erano sono diventati un pezzo terrorista, sono stato per 3 anni e mezzo, quasi, insomma, quasi 4, cioè, è chiaro che finisce per diventare qualcosa di. Però contemporaneamente c'è l'altra dimensione, e l'altra dimensione che cosa significa? Significa che nel corso dell'Ottocento e del Novecento l'antropologo ha visto letteralmente e concretamente morire a decine e a centinaia i propri oggetti di studio. Ha visto estinguersi le lingue e le culture che stava studiando. Quando Franz Boas mette mano al suo gigantesco progetto di manuale delle lingue amerindie, eccetera, eccetera, che le lingue amerindie erano in quel periodo ancora diverse centinaia, lui riesce a metterne, a descriverne soltanto 55, ma negli anni che vanno dal 1904 all'11, non mi ricordo quando, insomma, nel primo decennio o poco più del secolo scorso, in cui lui compie quest'opera, quel pezzo della lingua, mentre faceva il manuale, le culture morivano, si estinguevano, perché moriva l'ultimo a Tabasca, che moriva l'ultimo a Algonchino, perché moriva l'ultimo, cioè, ed era un processo ineluttabile contro cui l'antropologo non poteva fare nulla, perché l'antropologo era uno dei cessi, per quanto lo Smithsonian Institute, il museo delle culture, delle lingue nordamericane, fossero sinceramente interessati a salvaguardare, ma lo scrive però in realtà con l'economia doveva andare avanti, cioè l'episodio è stato sterminato perché sì, cioè diffidate sempre da quelli che vi raccontano la storiella degli eccessi, no? Vengo Buffalo Bill, sarebbe benissimo Buffalo Bill, ma Buffalo Bill non compra qua, è un virus, che come, cioè forse lo... Buffalo Bill è, come dire, esisteva come simbolo di qualcosa di sociale, di concreto, era una forza anonima, impersonale, non è colpa, come dire, di nessuno, non è il cattivo capitalista, è un po' come oggi, adesso tutti ce l'hanno con le banche, va bene, ok, ma non, anche lì, attenzione, i cattivi sono le banche, gli altri capitalisti sono buoni, Allora è colpa delle banche. È colpa di tutto il sistema, è un sistema complessivamente che va in quella direzione e che determina certe comportamenti. Finché non ci sbaracciamo, se ce la facciamo, di quel sistema, non delle banche, perché dentro quel sistema, se il sistema rimane, la funzione banca rimarrà e la farà qualcun altro, se anche io prendo tutti i banchieri della terra, li metto contro un muro abbastanza lungo e li mitraglio tutti uno per uno, va bene, posso farlo. E che dopodiché, se il capitalismo deve continuare a funzionare, qualcosa che funziona la banca ci vuole, quindi arriveranno degli altri che faranno questa cosa. È il sistema che va, idem per la storia, se i bisogni sono stati sterminati, non è perché c'erano alcuni con la testa calda, diciamo, c'erano i Buffalo Bill della insomma, situazione, no? I Buffalo Bill erano semplicemente l'effetto estremo, visibile, il più apparente di un sistema, che è un sistema che funziona in quel modo e funzionerà in quel modo anche senza il Buffalo Bill. Quindi, insomma, questo per dire che la contraddizione che c'è dietro l'antropologia, che è stata dietro l'antropologia, è una contraddizione ineliminabile, non a quel livello, cioè la posso eliminare soltanto se agisco o se ce la faccio. Certo, perché seguirà quella freccia. E ci seguiamo con la presa lì, certo, perché certo. E la seguiamo in un dato modo, perché forse adesso io non è che ci sono alcune componenti, sì, la presa del tempo, dice, l'unica realtà del tempo. Vabbè, con quello però lasciamoli pregiudicato, perché non è essere così. Ci sono delle versioni della mistica ebraica che sono un esempio per tutti è Walter Benjamin. Walter Benjamin è un intellettuale tedesco morto nel 1941, suicida scappando in fuga dai nazisti, il quale per tutta la vita tentò una impossibile, pensano alcuni, ma insomma però molto interessante sintesi tra marxismo e pensiero ebraico, e addirittura mistica ebraica, è comunque uno da studiare. Allora, in quel caso, per esempio, lui è uno che tentò di interpretare la freccia del tempo, come dire, in maniera non autoritaria, non per dire. Quindi, però è vero, in generale le cose sono andate così, certo. Allora, questo però anche come effetto, allora vabbè, comunque passa, arrivano anni 10, anni 20, anni 30, anni 40, dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50 del secolo scorso, l'antropologo si trova spesso a corto di oggetti, cioè non c'è più, o ne ha sempre meno, sì, qualche gruppo rimane proprio con qualche sperduta tribù all'interno del Mato Grosso, anche perché il Mato Grosso è così grosso, come dice la parola stessa, è così esteso, è così grande, che qualche buchetto con qualche tribù che non ha mai visto bianchi si trova, ma sono poche decine di persone in tutto il Brasile, idem per l'Australia. Siamo l'integrazione già negli anni 50 di indiani nel Nord America, di indiani che vivono integralmente, non ce n'è da più. Cioè stanno tutti dentro le riserve, quando vengono presi dentro le riserve eccetera sono già occidentalizzati, insomma non ci sono più, quindi cosa studia l'antropologo. Però fortunatamente o sfortunatamente, dipende dal punto di vista, gli studi che ha fatto precedentemente l'antropologo o altri antropologi sulle società altre e la riflessione che ha fatto anche sulla propria società hanno convinto gli antropologi, e questo già si comincia a vedere negli anni 50, 60, 70 del secolo scorso, ha convinto l'antropologo che questa dimensione dell'altro, scritto pure con la maiuscola così, mi ricordo Lacan, è fatta anche più bella figura, dice che questo è l'altro lacaniano, l'altro di Lacan perché c'è la maiuscola. La dimensione dell'altro non è confinata alle società che hanno una storia e una localizzazione geografica diversa dalla nostra. Non è il contrappasso dantesco, certo, però entro certi limiti si può dire che nella misura in cui la società occidentale che stermina, che è costretta dalla propria logica interna, ad eliminare, a marginalizzare e a ridicolizzare o a folclorizzare, a rendere folcloristiche le altre culture, contemporaneamente però in qualche modo, non per le stesse ragioni e non con gli stessi processi, però contemporaneamente assorbe delle quote crescenti di altro al proprio interno, si fa più complessa, è la società occidentale stessa che si fa più complessa. La stratificazione sociale, relativamente semplice, durante tutto il Medioevo e anche ai primissimi inizi della società moderna, comincia a stratificarsi sempre di più nell'Occidente stesso. Spesso non sono, con questo non voglio dire che l'unica riserva possibile di altro all'interno dell'Occidente siano i residui delle antiche società appena integrate, quelli integrati da poco, no. All'interno stesso della società, cioè all'interno stesso delle formazioni sociali che hanno una storia lunga, quindi gli anni, insomma, mentre da un certo punto di vista le vecchie distinzioni di tipo medievale, quelle delle gilde, delle corporazioni, basate sul mestiere, eccetera, eccetera, si dissolvono e il capitalismo semplifica, in una prima fase semplifica, perché trasforma tutte queste diverse categorie di lavoratori specializzati in un'unica categoria che è la classe operaia. Ma le cose durano ben poco così, anche dentro la classe operaia, anche dentro questo nuovo soggetto sociale, certamente molto all'inizio indifferenziato, eccetera, eccetera, le stesse dinamiche sociali capitalistiche ricreano differenziazioni. La società capitalistica è una società contraddittoria di per sé, perché mentre su di un versante agisce per la semplificazione, per l'omogeneizzazione, dall'altro versante contemporaneamente, e a volte proprio contemporaneamente quasi con gli stessi processi, mentre un aspetto di questi processi genera semplificazione nel dato sociale, contemporaneamente c'è un altro aspetto che invece genera complessità, che invece genera differenziazione. È impossibile concepire una dinamica sociale all'interno del capitalismo che non abbia entrambe queste componenti, una alla semplificazione e l'altra alla differenziazione. Ma cosa significa anche questo? Anche i soggetti già presenti. Anche i soggetti già presenti. Cioè, certo. I figli della società occidentale. Cioè quelli che già sono nati nella società occidentale hanno. Perché? Perché la complessità e la ricchezza anche del processo produttivo porta con sé una ricchezza maggiore che in passato dell'immaginario, un ruolo dell'immaginario diverso da quello integra sempre di più, cioè come dire, il movimento è una città che fa voce da tutto, cioè tenta sempre di portare dentro tutto, e non solo dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista categoriale, no? Quindi mentre per tutta la prima fase, obiettivamente la cultura, l'immaginario, eccetera, sono cose che sono rimaste fuori del meccanismo di valorizzazione, all'apice del capitalismo, già nel momento maturo del capitalismo fordista, e poi sempre di più anche in quello post-fordista, come ovvio, si cominciano a vedere invece i prodromi di un processo per cui questo immaginario viene portato dentro il meccanismo economico. Ma questo, se da un lato semplifica, quindi va bene, adesso tutto è fonte di valore, prima non era così. Prima c'erano alcune attività che erano fonte di valore economico, altre no. Adesso semplifica, perché se tutto è fonte di valore, come nel fatto dico, ma non tutto è fonte di valore nello stesso modo. Quindi contemporaneamente, oltre alla semplificazione, c'è un altro processo invece che va nel senso opposto, di rendere più complesso, di rendere più frastagliato, di rendere più composito, diciamo, l'immaginario. Cosa vuol dire questo per l'antropologia? Vuol dire una cosa di cui gli antropologi si rendono conto abbastanza presto, che è ben possibile studiare delle culture, o delle, che lo, allora qui ci vuole ovviamente un termine diverso, per una fase le chiamano subculture, è possibile studiare all'interno di un'unica cultura occidentale delle subculture, cioè ci si rende conto che una serie di articolazioni della società occidentale, nata, sviluppata all'interno della società occidentale, non si riconoscono direttamente nell'immaginario, nei costumi, nelle abitudini, diciamo, dominanti, generalizzate, ma tendono ad acquisire comportamenti, stili, modi di vestire, stili di vita, cibi e bevande, tipi e luoghi di divertimento diversi da quelli più generalmente diffusi. Quindi è possibile studiare, facciamo un esempio specifico, quando negli anni 50, nel primissimo dopoguerra, negli Stati Uniti, che sono in quel momento la società che attraverso sono state che si avvia adesso, e probabilmente già lo è negli anni 50, la più complessa del mondo, la più la più strutturata, la più composita, perché per origine è così, perché è una risposta di arte, ma anche perché da un punto di vista economico e sociale, due guerre mondiali successive, la prima e la seconda, l'hanno, come dire, promossa al rango di società fondamentale. Ancora nella prima guerra mondiale non è così. La prima guerra mondiale la vinto l'Inghilterra e la Francia, praticamente la vince l'Inghilterra, quasi da sola. Gli Stati Uniti arrivano ultimi, danno una mano, sono poca roba nella prima. Anche noi sì, poca roba. Poca roba pure noi. Poca roba, però è l'Inghilterra, né noi della Francia, la Francia aveva una guerra subito. Poi dopo l'Inghilterra danno una mano. Gli italiani hanno fatto due o tre cosette, senza offesa, ma la battaglia principale dell'esercito italiano è scampa Poveto, però è quella principale, in cui li abbiamo presi come legnate come se piovesse, quindi secondo me. Sì, è come eroe, perché noi ci auto. Perché ci vediamo bene, siamo qua. Ma come immaginare di portare del pane? Sì, posso bene. Vengo, esco. Si riuniscono ancora adesso con la storia di Italia, ci sono centinaia di persone. Ragazzi, io esco direttamente da lì, sono più vecchio. Originario, quindi non lo fate, era moderno. Storia delle scuole, ho detto. No, sono nato durante la seconda, ma... Comunque ancora quando ero piccolo io questa storia degli alpini, il piano del Morano me l'hanno comunque insegnato, quindi la so ancora tutta adesso a memoria, ma non ve la dirò né recitata né cantata. I francesi non sono meglio di noi, perché la cosa fondamentale per loro è la mano, che è un'altra roba in cui ne ha prese come se piovesse, quindi insomma adesso diciamo comunque nella prima guerra mondiale gli USA, ma nella prima guerra mondiale gli USA sono la cosa fondamentale, se non c'erano gli USA, ragazzi, sì, anche lì la Francia è andata subito fuori gioco, l'Italia stavolta era dall'altra parte almeno fino al 1943. L'Inghilterra ha resistito eroicamente, ma fra il 41 e il 42 erano alla casa del gas pure inglesi, cioè V2 su V2 tutti i giorni su Londra, non so se vi spiego, insomma, non è che ce la facevano tanto, sono riusciti a non farsi colpire sul mare, ma fino a che non hanno decifrato il sistema di cifratura dei messaggi segreti tedeschi, con questa macchina Colossus che è il nonnino dei computer contemporanei, non andarono le cose. E quindi chi l'ha vinta la guerra mondiale, insomma. E su due fronti, in Europa e nel Pacifico, insomma, sono stati gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti escono. Gli Stati Uniti sono quindi, negli anni 50, gli USA sono la società non solo più forte, non solo più ricca, ma anche quella più complessa, perché per una serie di sono la società in cui al mondo si è realizzato nel modo più distorto eccetera, ma comunque realmente un incrocio, diciamo, di razze e di culture, insomma, no? La presenza e l'importanza della componente afroamericana in tutta la storia degli Stati Uniti del Novecento e lì a ciò testimoniato. Ma allora adesso non perdiamo di vista la nostra stella polare, una parola di antropologia, ci vediamo. Insomma, il succo di tutto questo è che l'antropologo si accorge che può fare dell'antropologia anche a casa sua, che studiare una subcultura per esempio studiare la cultura urbana dei neri, che all'epoca si chiamavano ancora neri, urbani, della popolazione negra urbana di Chicago, per dire, è altrettanto complesso, ma altrettanto redditizio da un punto di vista dei risultati di studio, quanto andare a studiare la cultura giapponese o balinese, che c'è una dimensione di alterità che sta crescendo, ripeto, in maniera contraddittoria, cresce insieme all'omologazione, insieme all'integrazione, cresce l'alterità, cresce la differenza, cresce la riconoscibilità. Allora, questo che cosa implica? Questo implica, significa che la scomparsa delle tradizionali civiltà oggetto di studio, delle tradizionali culture, società oggetto di studio dell'antropologo, le società realmente radicate temporalmente e spazialmente al di fuori dell'Occidente, non significa automaticamente una diminuzione delle riserve di caccia dell'antropologo, le quali anzi esse aumentano, perché si moltiplicano all'interno della come dire, società occidentale stessa. Ma ad esempio, no, stavo pensando, sì. Comunque magari queste società più esotiche, più corrette, no, scompaiono, però lo stesso, al di fuori dei nuovi gruppi che si formano, così ad esempio, quelle, non so come chiamarle, proviamo. Non so, tipo, non so, i Walser per dire, i Walser o quelle popolazioni sulle Alpi per dire, che mantengono, cioè, non so. Sì, no, va benissimo, certo. Quindi ci sono situazioni, io sono stato, quando ero piccolo, quindi avevo 5-6 anni, quindi primissimi anni 50, sono andato a fare le vacanze per 2 anni di fila sulle Dolomiti in una enclave ladina, questo parlava ladino, parlava anche italiano, insomma. Ovviamente ci si accorgeva che c'era una differenza, che c'erano dalle cose più stupide, il fatto che il mio padrone di casa, cioè il contadino, c'aveva la lunga del mignolo lunga 3 chilometri e mezzo. E allora fa così, si tira la scuola, mi diceva, ma che mamma lì, la mia mamma è sempre stata, diciamo, diffidente della mia curiosità, che ero sempre curioso di troppe cose. E quindi non mi devo chiedere perché c'era la lunga, ma io. Ma non mi dà fastidio, stavo già lunga di mia, insomma, no, scherzo, una cazzata. Però la lingua, la roba, eccetera, eccetera, ci sono, però, voglio dire, il processo, certo, però era sempre verso, da un lato verso la marginalizzazione di queste società, dall'altro verso l'integrazione, cioè, vuol dire, queste robe funzionano bene fino a che è come Shangri-La, cioè, sono la rata in cui non arriva nessuno. Quando come dire, cominci a costruire un'autostrada che collega Lahore con Shangri-La è bella finita, perché non, cioè, ci arrivano tutti i turisti, diciamo, forse era così, capisci? Cioè c'era un tentativo, ma la invece dinamica che ho cercato di spiegarvi era che l'alterità si crea non solo e non tanto per la sopravvivenza di vecchie minoranze culturali, ma anche all'interno del melting pot ne nascono di nuove. La subcultura nera, pensate, dal punto di vista della musica è, insomma, chiarissima, diciamo, la cosa. Nascono interi generi musicali da questo incontro, cioè il jazz nasce da un incontro fra una tradizione musicale bianca, una tradizione musicale nera, e quella nera è di forte alterità. Attenzione, già il gospel è una, e già il gospel che è, diciamo, l'antenato, insomma, più o meno uno dei primi antenati, diciamo, del jazz, diciamo la linea gospel blues, diciamo jazz, no? E c'è già una complicazione, perché nel blues c'è già la base ritmica di tipo africano, diciamo di matrice africana, quindi totalmente aliena, totalmente altra rispetto a noi, e la componente del sistema, di un sistema melodico comunque totalmente occidentale, in cui c'è la come dire, melodia, poi dopo cambia una cosa, insomma, è, come questo incontro genera già delle, però genera una cosa che negli anni 20 nessun bianco cantava la blues, non proprio, non c'è, sarebbe stato per me anche scandaloso sentirli, cioè sentire un bianco cantare la blues. Adesso già quando sono nato io negli anni, come dire, 50, nasce il rock and roll, quindi nasce una cosa che è già un'ibridazione, che è già un blues modificato, e però io comunque mi ricordo, io c'avevo quando ho sentito la prima volta che ho sentito Elvis Presley, cosa c'era stato? Avevo 8 anni, quindi era 52, insomma, erano i primissimi anni 50, era, cioè, comunque sì, a me mi hanno levato anni da pizzi e di innovativa e genitoriale, insomma, quindi ti dico io, poi io vabbè, dopo mi sarei guardato io per conto mio successivamente, ma parlavo piccolo, ancora non avevo autonomia, quindi, e però la radio, comunque sia, voglio dire, la prima cantazione, il primo rock di giornalista è stato Tutti Frutti, che era obiettivamente una cosa, cioè non c'era praticamente melodia, cioè c'era un'unica frase musicale ripetuta ossessivamente per tutto il corpo della canzone, una serie, adesso Tutti Frutti è un titolo strano perché comunque ha due parole italiane, ma pronunciate malissimo, era comunque un pezzo americano. Lì c'è già un ibrido, c'è già una ibridazione da un punto di vista. Quando poi negli anni 50 matura l'idea, cioè, il movimento hippie è un movimento che è matura dall'esterno della società occidentale, no? Matura, diciamo, dall'interno, però è un movimento, e anche lì riporto una connessione concreta, cioè da un punto di osservazione molto particolare come era, diciamo, l'Italia, insomma, ma c'era realmente una spaccatura, il fatto di portare i capelli, non dico lunghi, fin qua che non separavano neanche, ma un po' più lunghi di così, no, in realtà si portavano normali, comunque, o a sparazzo, o un po' più cose, ma però, di portarli sul colletto, cioè che ti toccassero il colletto della camicia, le mamme tipo, erano battaglie dentro le case, insomma, no, io venivo, cioè, quando ho fatto il liceo tra il 1956-57 e il 1961, sì. Quindi tra il 56 e il 61, sì. No, sto pensando all'Ungheria, che facevo già la prima ricerca. Allora, e c'erano i Genova, poi un'altra città marginale rispetto, quindi io purtroppo non sono stato né a Milano né a Roma quando ero piccolo, quindi non posso dirvi come era. Insomma, a Genova c'era comunque una piccola comunità di persone, di giovanotti, gente della mia età, anche un po' più grandi, sono di 18 anni, non più diventati, però che sì, vedevano in una piazza, diciamo, genovese, marginalizzati, guardati con opprobrio da tutte le nostre mamme, zie, eccetera, no? I capelloni. La gente, ripeto, con i capelli, qualcuno aveva anche lunghi, ma in genere erano appena che toccavano il colletto, ok? Io che mi ricordo lì, facevo secondo o terzo liceo, e tentai una misura intermedia, cioè che, insomma, con il colletto, E ovviamente questi avevano una roba, a parte mia madre, ma con mia madre vinco più o meno la battaglia, faccio finta di essere dimenticato di andare dal parrucchiere, eccetera, a quel punto cominciano a crescere, arrivavano sopra il colletto, notavano sopra il colletto. Beh, vengo subito beccato dal preside del liceo scientifico di Domenico Cassini, che ho ingloriosamente frequentato in quegli anni lì, e c'è questo che stava fuori dalla porta, tenendo in mano a mo' di zappa un mezzo sigaro infilato in una specie di bocchino di legno, credo, una roba veramente mi pareva. E faceva il rock. fuori, nel momento non era il mio libro di memoria, quindi finché non salta fuori, ma salta fuori. Insomma, sto questo qua, si tende avanti, guardava e a ogni persona, a quelli che secondo lui erano, come dire, i più anormali, i più quelli che sfuggivano al modello, no? Aveva sempre una bottina per loro. E la mia era, come così aveva la bocca, mi chiamava, no? Parole mia, agli arri quei capelli. Cioè, una mattina su due, era così, poi c'era, come dire, c'era una tolleranza, cioè andava a capire che non ti chiudevano il cesto e non ti rapparono a forza loro, insomma, perché più o meno la società, che ci fosse una società democratica, più o meno era. Però c'era una pressione sociale fortissima, insomma, cioè l'autorità. E io non ero uno, cioè, ero comunque insomma tenuto molto a pieno in casa mia, comunque fino ai miei primi anni in cui maturo la mia rivolta, poi ovviamente a 18 anni ho confrontato i ragazzi miei, però ancora durante il liceo ero, insomma, non ne ho fatte ricordi, sì, sono stato sospeso per 2 anni, quanto via faceva, era impossibile, ma era veramente una cosa tremenda, ragazzi, chiunque vi parli o vi dimostri nostalgia per un'epoca come gli anni 50, ditegli, sputategli negli occhi a nome che dice, ha detto però neanche devo buttarti nell'occhio. Perché, cioè, perché era realmente una società, ma proprio fascista ancora, come autoritaria nell'intimo proprio. Sì, in Italia, ma penso anche a lei, insomma, se guardi, andate a vedere un film come Bruciata, che è del 53-54, con Jeff Dean, se ve lo trovate in qualunque cosa, insomma, del Dean che film ha fatto, quindi non è insomma, del Dean che viene qua, del Cinque. Sì. Molto giovane, cioè, un tipico, diciamo, in realtà adesso, se guardate adesso, ci attengono i capelli cortissimi, cioè, voi guardate anche il conflitto generazionale in quei film, visto con gli occhi degli anni 60, 70, 80, sembrano tutti degli angioletti, cioè, ma più, dove erano le cose così terribili che facevano, questo non si chiede, no? Eppure bastavano poche cose, bastava pochissimo per tu sfidare un ordine costituito, sfidare. Allora, quindi, per tornare a noi, dove stava, diciamo, l'interesse? Quello è un campo in cui sociologia e antropologia si confondevano, cioè, se uno andava a fare uno studio sulle abitudini, i comportamenti, quindi il modo, gli stili di vita, quello che oggi si direbbe stili di vita, insomma, delle società, di queste che, diciamo, in modo non dispregiativo, poi, tecnicamente si sono chiamate subculture, cioè, diciamo, enclave culturali all'interno di una. Poi a quello punto cioè, tutti questi anni, tutti questi comportamenti, tutti questi piccoli indizi che vi ho dato adesso, 2006, ovviamente alla fine degli anni 50 maturano, sbocciano in qualche maniera, sbocciano chiaramente il verbo potrebbe non essere stato adeguato a tutti, insomma, ad un certo punto Castellano si chiamava presidente, a un certo punto, perché vengono fuori quando devono venire fuori. Allora, ad un certo punto il preside Castellano che si piazza sulla soglia del liceo e dice, caro mio, tagliati i capelli, Giovannino, vestiti in modo più decente, oppure non bastano più, cioè non potevano più, anche perché cara mia non solo non si taglia i capelli ma ne fa altre, Giovannino anche lui non solo non si veste in maniera diciamo consola ma ne fa altre, cominciamo tutti o perlomeno una parte di noi generazione a farne altre, insomma, quindi la cosa importante comincia a non essere più la sua taglia dei capelli lunghi ma comincia ad essere quella di cominciare a voler essere studenti a modo nostro, voler essere cittadini a modo nostro e comunque rifiutare complessivamente una cultura che ci era stata tramandata dai nostri genitori, ovviamente dovevamo trovare e ognuno di noi, ogni gruppo, ogni sottogruppo di noi ha trovato i terreni sui quali, diciamo, diversificarsi, i terreni di comportamento dei controllamenti, perché sicuramente se non c'era comportamento cosa facevi? Non serve a nulla, però insieme anche quindi, la pratica e la teoria, cioè c'è a costruire anche un discorso che in qualche maniera, come dire, sostenesse, desse delle motivazioni e delle, diciamo, ragioni. È sulla base di quello che almeno una parte del movimento, diciamo, degli hippie, diciamo, il movimento hippie, usiamo pure il termine americano perché è stata in quella società che si è manifestato nel modo più ampio questo, come dire, fenomeno, e tutti noi più o meno eravamo degli hippie anche capelli lunghissimi. Io ho considerato di avere più di 30 anni per usare i capelli lunghi sulle spalle, perché poi nel frattempo sono diventato militante politico, e quindi anche se ero all'opposizione, però c'era qualche cosa che, e quindi non ho fumato canne, non ho fatto del fino a quando non ho avuto quasi 30 anni, insomma. Ma solo una domanda, allora, se queste nicchie sono oggetto di studio degli antropologi, i sociologi, di cosa si non cambia tanto degli antropologi o dei sociologi. Diciamo, il sociologo tradizionale, però, diciamo, il sociologo poi ci sono dati, anche la tipologia è differenziata, però, diciamo, il paradigma generale del sociologo, ancora neanche in fase stampa, quindi oggi è molto diverso, ma in realtà è soprattutto un paradigma di tipo quantitativo, cioè il sociologo si occupa di grandezze misurabili all'interno di una società, quindi magari grandezze anche comportamentali, che però per esempio il sociologo classico va a fare delle statistiche, va a misurare quanta gente va al cinema nella classe di età, dico in un periodo in cui andare al cinema era diverso da oggi, qualcosa che riguardava più o meno tutta la popolazione entro certi limiti, comunque diciamo non c'era stramodice. Sì, sapete, se io vado al cinema ogni faccio scandalo, cioè quando vado in effetti vedo che tutti mi guardano in modo un po' così, perché non ce n'è di gente che non so, per esempio in provincia sia diverso. A Milano il più vecchio c'ha 30 anni, gente sopra i 40 che va al cinema. No. A Milano ce n'è qua, vabbè, allora quindi vedo che è. A me il cineforum è una cosa, il cinema commerciale normale, insomma, no, comunque sì. Tu mi dici sempre sì. Allora, diciamo, il sociologo dice, un tosso di fatto una teoria, poi c'è anche il sociologo qualitativo, però anche oggi, diciamo, i sociologi che si occupano dell'immaginario ci sono, ma sono una minoranza e sono guardati con un certo sospetto all'interno della popolazione dei sociologi. L'antropologo invece, anche quando usa anche lui a volte strumenti quantitativi, come no, perché la prima cosa che fa l'antropologo classico quando va a vivere un mese, due mesi, sei mesi, un anno in una popolazione, censisce la popolazione, è vistoso. Quando scrive un'ambiquaria, dice c'erano 56 coppie, cioè la prima cosa che fa è quella. Però poi si dedica prevalentemente a degli studi sui meccanismi, sui dispositivi di interazione culturale. Diciamo, si potrebbe dire così, che un antropologo a poco si trasforma in un sociologo dell'interazione culturale, insomma, in qualche modo. È un sociologo, anche lui, che studia delle società o dei frammenti o dei pezzi di società, insomma. E però comunque sia, diciamo, la linea di tendenza dagli anni 50-60 a oggi è che comunque è sempre più difficile distinguere sociologi dagli antropologi. Certamente poi le corporazioni culturali rimangono, quindi sociologi hanno i loro visi, gli antropologi hanno i loro, eccetera. Ma spessissimo tu trovi gente che è, cioè, gente di confine ce n'è sempre di più, insomma, gente che non sai bene se se c'eravamo anche prima in parte, insomma, come dire, però mentre prima era presente, perché Marinotti è un altro posto, perché è stato 4 anni nel Cover e ha studiato i sorgandesi. Già uno come Lévi-Strauss, insomma, vedremo che è un po' diverso, perché Lévi-Strauss è stato meno di 3 anni in tutto a fare lavoro sul campo. Ah, quindi anche lui ha fatto lavoro sul campo? Sul campo 3 lavori importanti e uno ha fatto un libro, e su questo ha costruito il suo. Però poi tutto l'anno successivo è tutto lavoro teorico, di cui non si è più continuato, cioè ha fatto quello che facevamo prima, cioè metteva insieme lavori di altri. Ma lui è uno dei primi che teorizza questa cosa delle nicchie culturali o no? Ma nessuno l'ha realmente teorizzata in maniera, no, anzi, figuriamoci, poi diciamo, sta una situazione universalista tale per cui. E vabbè, allora adesso ci ho messo un bel po', ma vi ho dato il quadro, insomma, più o meno, diciamo, generale. Devo aggiungere un'ultima cosa ancora prima di passare a Lévi-Strauss, che è appunto questa. È la cosa su cui parto fino all'inizio del corso, ma spero di riformularla in modo che vi risulti almeno un pochino nuova. In questo continuo lavoro che fa l'antropologo, anche l'antropologo di tipo nuovo, e cioè il tentativo di creare una situazione, il tentativo di creare un quadro nel quale siano leggibili, comprensibili, esito ad usare il termine spiegabile, che non sempre l'antropologo, come non sempre il sociologo fornisce una spiegazione, insomma. Adesso poi vedremo come Lévi-Strauss trasforma il concetto di spiegazione. Comunque, all'interno di questo lavoro, chiamiamolo di interpretazione. Il lavoro dell'antropologo è prevalentemente un lavoro di interpretazione, cioè di traduzione di categorie culturali. Lui osserva certi comportamenti che hanno una interpretazione specifica in quella società, ma che spesso è per noi quell'interpretazione è incomprensibile o addirittura non formulabile proprio, no? E quindi cosa fa? Ci fornisce una traduzione di quei comportamenti, di quei materiali che si elaborano all'interno di quella cultura aliena o di quella subcultura altrettanto aliena, ma come dire, vicina a noi, dentro diciamo, di noi, e lo fa in un modo che possa risultare comprensibile a chi fa parte di un'altra tradizione culturale. Questo è il lavoro che fa l'antropologo. Quando ci spiega come vivono i Bororo, come vivono in Ambiguara, non fa altro che tradurre le loro autorappresentazioni, che così nude e crude per noi sarebbero incomprensibili, quasi altrimenti incomprensibili, le traduce all'interno di un linguaggio comprensibile all'uomo dell'Occidente che deve, virgolette, fruirne. Dentro questo lavoro voi capite che ancora una volta c'è una doppia polarità. La doppia polarità qual è? La polarità, non esistono i monopoli, esistono i monopoli, ma non i monopoli. No, esistono i monopoli, ma non i monopoli. Ce ne sono sempre due. Allora, la polarità in questo caso è la polarità, come sempre, però si presenta in maniera, diciamo, diversa. Da un lato c'è il polo della differenziazione, della differenza. Più studio il comportamento concreto di un gruppo sociale, più mi accorgo che questo gruppo sociale ha un comportamento differente dagli altri. Non solo le società orali, le società senza scrittura hanno un comportamento differente dalla realtà con una scrittura, ma all'interno delle società della scrittura, all'interno di situazioni sociali e complessi di relazioni sociali maturate all'interno della stessa società, ci sono gruppi di comportamento diversi a seconda della stratificazione sociale, a seconda dei valori di fondo che ispirano queste, insomma, che ci sono all'interno della, se, diciamo che qualsiasi cultura, quando è arrivata a un sufficiente livello di complessità, genera subculture, cioè genera differenziazioni tali da poter essere addirittura trattate come culture differenti, e quindi da poter essere studiate, da poter diventare oggetti di studio antropologico. Quindi da un lato sembrerebbe che lo scopo principale dell'antropologia sia quello di fornirci una teoria, sì, se vogliamo, ma una teoria della differenza, una teoria della differenziazione, una teoria della frammentazione, una teoria della... che il mondo dell'antropologo non sia altro che un mondo di differenze. Attenzione, di differenze non integrabili dentro un unico modello, non integrabili dentro un unico modello, che devono essere mantenute come differenze per poter essere capite. Diciamolo in maniera più radicale. Visto da questo punto di vista, il principio fondamentale dell'antropologia potrebbe essere enunciato così. Una società è degna di essere studiata, degna nel senso di può diventare oggetto di studio, non degna, non in senso morale. Una società può diventare oggetto di studio nel momento in cui ha sviluppato una quantità di differenze dalle società circostanti tali da essere considerate irriducibili. Cioè soltanto quando la differenza è irriducibile può scattare lo studio della sociologia aliena, cioè dell'antropologia. Allora, ad un polo sembrerebbe che l'antropologia ci suggerisca una irriducibilità delle differenze e quindi una intraducibilità delle culture, intraducibilità nel senso universale, generale. È impossibile, cioè sarebbe in questo caso un po' come per le lingue, è impossibile tradurre integralmente una cultura in un'altra come è impossibile tradurre integralmente una lingua in un'altra. Okay. Adesso però vi metto subito in crisi perché questo è un polo solo. L'altro polo è completamente diverso, l'altro polo nega invece questa tesi. L'altro polo dice, ma come? Ma nel momento in cui io, che sono antropologo e faccio parte della formazione culturale A, vado a studiare la formazione culturale B, e sono in grado di capirla, e sono in grado di tradurre, sono in grado di tradurla anche, sono in grado di rendere quello che fanno quelli di B comprensibile ai miei lettori di A. Cosa vuol dire questo? Che tra A e B c'è qualcosa di comune, che c'è un nucleo in cui io posso lavorare per tradurre. Non solo, addirittura questo nucleo è tanto importante per l'antropologo da essere in realtà questo il centro del suo lavoro. In questo polo quindi la differenza, anche se non è integrabile in senso materiale, nei termini classici, però in questo modo la tesi, la seconda tesi, la tesi opposta, potrebbe essere espressa così. Perché l'antropologia possa funzionare, ci deve essere una corrispondenza, almeno tra una parte della cultura A e una parte della cultura B, è una corrispondenza che assicuri la traduzione, che assicuri la comprensibilità, che assicuri la descrivibilità della società B con i termini culturali di A, ma siccome questa situazione si ripete per qualsiasi coppia di società io possa concepire, questo vuol dire che a un certo punto ci deve essere un nucleo comune a tutte le società possibili, che è il nucleo, diciamo, dell'universale antropologico o dell'universale sociologico. Questa seconda tesi stabilisce quindi che non è vero che le culture sono destinate alla continua differenziazione e alla continua riproposizione del meccanismo di moltiplicazione delle differenze, ma che al contrario c'è una specie di che il compito dell'antropologo è quello di studiare ciò che rende comuni, ciò che rende universali le culture, non ciò che le rende personali. Anche qui capite che non se ne esce, cioè prende nella loro formulazione integrale entrambe queste tesi sono incompatibili e se sviluppate in modo conseguente potrebbero forse far saltare il discorso dell'antropologia, perché se ci pensate bene ogni antropologo si muove, ogni sociologo anche se vogliamo si muove sempre entro questi due poli, però nel campo del sociologo la dicotomia è un po' mascherata dal fatto che nella configurazione normale le società A e B coincidono per il sociologo, no? Il sociologo è uno di una società che studia la sua società in genere, no? Certamente se poi scopro che ci sono dei meccanismi, dei dispositivi, dei processi di differenziazione culturale anche dentro la mia società, posso capire che, però in linea di partenza, in linea di massima, da questa contraddizione l'antropologia non è mai uscita, non è uscita ancora neanche adesso. Abbastanza, nel senso che se è vero che in ogni antropologo ci deve essere, adesso vi propongo due termini molto rozzi, me ne rendo conto, ma nominare questi due poli, no? Allora, c'è il polo dell'universalismo e il polo del relativismo, insomma, no? È relativismo. Relativismo, cioè c'è un'ipotesi che possiamo chiamare, diciamo, relativista, le culture sono tutte diverse tra loro e sono essenzialmente intraducibili, cioè nel senso che non sono traducibili totalmente. C'è sempre una parte più o meno grossa di irriducibilità di una cultura ad un'altra. Questo è il polo relativista. Il polo universalista invece dice sì, ma al di sotto di questa di questa differenza di fenomeni c'è un nucleo, un'essenza che invece è universale, che fa parte di tutte le, diciamo, culture. Allora, ma se c'è, a me sembra che dicano un po' la stessa cosa. Sono cose molto diverse. No, sì, però dico. Perché la stessa cosa? No, nel senso che se uno mi dice, cioè, ci sono due culture diverse, no? Sono due? Due culture diverse, ok. Però, e non sono totalmente traducibili l'una nell'altro, però non sono totalmente traducibili, vuol dire che in alcuna parte saranno traducibili. Okay. E quindi allora, se l'altra mi dice che c'è un universale comune a tutti, questo universale mi viene a pensare che possa essere quella parte traducibile che dice la prima teoria. Allora, due osservazioni. Primo, non è detto che la parte comune a due differenti culture sia la stessa per ogni coppia di culture che tu prendi. Può essere benissimo che la parte comune vari a seconda delle due culture che tu vedi. Anche qui la cosa mascherata, il processo è mascherato perché in pratica di queste due, di queste coppie di culture, una è fissa, è la nostra cultura, siamo sempre noi che studiamo, tanti altri. Ma anche la cultura non è detto che la parte in cui si sovrappongono la cultura occidentale e la cultura bororo sia la stessa parte in cui si sovrappongono la cultura occidentale e la cultura guaraní. Allora, il discorso relativista al limite mina realmente al fondo il discorso universalista, perché io non ho, anche se, se i campi sovrapponibili, se le parti, se le parti comuni non sono sempre, cioè certo io faccio un altro di fede e dico sì, ma c'è una piccola parte comune a tutte, ma come cazzo faccio a dirlo? Cioè come posso saperlo a priori? Dovrei andare a studiare, cioè voglio dire, diciamo l'ipotesi è relativista non perché nega, il relativista intelligente, come l'ateo, come dire intelligente, non afferma l'inesistenza di Dio, dice che l'esistenza di Dio è indimostrabile, che è un problema aperto, quindi così il relativista non dice non c'è nessun campo comune a tutte le culture umane, dice in linea di principio questo campo comune potrebbe esserci, ma bisogna trovarlo, bisogna dimostrare che diciamo ci sia, e quindi ribalta l'onere della prova. Ma la cosa, diciamo, la questione che mina ancora di più alla base il discorso universalista è che la rappresentazione delle due culture come due cerchi è molto rosa e nasconde il fatto che nessuna cultura è un cerchio, ma ogni cultura è già di per sé una famiglia di cerchi sovrapposti tra, diciamo, tra loro, o all'interno di ogni cultura sono individuabili delle sottoculture, delle subculture, delle componenti o delle cose. Quindi tu come faccio a allora non è il adesso non so se chi ha ragione e chi ha torto, ma se siano compatibili o no i due con i discorsi. Allora, il discorso relativistico è un discorso che mette in primo piano sempre e costantemente il carattere plurale e composito dell'esperienza culturale e quindi non nega a priori, ma vede l'eventuale scoperta di una dimensione comune a due culture o a tutte le culture come un eventuale punto di approdo di una ricerca. Il punto di vista universalista, invece, presuppone l'esistenza di questa base comune. Dice, io sono convinto, prima di partire, non a caso uno dei concetti più importanti e più fondamentali del punto di vista universalista è quello di natura umana. Gli esseri umani hanno una natura, cioè hanno un insieme di proprietà e di comportamenti positivamente descrivibili con certe cose. Il relativista non dirà che non esiste la natura umana, lui dirà intanto che non la conosce. Non so cos'è questa natura umana, se la trovi avvisami, dimmelo che va bene. Però per il momento io vado a studio le varie culture e per il momento mi accorgo che non c'è nessun sistema, che non c'è nessun modo di vedere le cose che è valido universalmente, a parte certe universalissime categorie, certo non bisogna fare il pubblico come Kant, ora ci sono lo spazio e il tempo, ma anche lo spazio e il tempo, cioè quando Kant proclamò lo spazio e il tempo come strutture fondamentali, universali, anche lì però era come dire, un trucco linguistico. Nella dispensa che vi ho dato, se la leggete, vedete che trovate degli esempi di lingua indiana in cui certo c'è una dimensione temporale che noi possiamo chiamare temporale, ma è un tempo diverso dal nostro, è un tempo diverso. Quindi allora, va bene, io chiamo tempo come loro chiamano tempo, questo genere di cose, ma come faccio a dire che sono esattamente la stessa cosa? Come faccio? Allora, è chiaro perché sono diversi, perché l'universalista presuppone che il concetto di nucleo comune, universale ci sia. Magari dice, so che c'è, sono convinto che c'è, non so bene dov'è, la mia ricerca tende a cercarlo, ma parto dal presupposto che ci sia. Arrivati lì, invece, dice, non so se c'è o no, non afferma che non c'è, ma dice, no, mentre l'universalista parte affermando che c'è, poi dice non so dov'è, lo cerco, l'universalista, il relativista dice non lo so se c'è, lo cerco, io cerco, se durante il percorso lo trovo, se studio 27.343 culture e trovo che in tutte queste c'è una qualche piccola parte di protezione dello spazio e del tempo comune, dirò che c'è una categoria. Certamente poi voglio sempre dire, non lo so, perché può darsi che l'impatto nella prossima cultura in cui non c'è. Però uno a questo ci mette una pezza, dice uso il punto di vista universalista provvisoriamente, dico allo stato attuale delle conoscenze per il momento possiamo dire che è così, no? Diciamo questo sarebbe l'universalista intelligente, non tutti sono così, anzi la maggior parte non sono così. Insomma, adesso parlo io che essendo relativista tendo a, però comunque cerco di guardare in modo equanime. Comunque c'è una differenza tra i due punti di vista, ho schiarito qual è, perché se no. Bene, allora. Adesso andiamo noi, poi vi posso chiedere la pausa dopo sempre, sì. Sostanza. Dimmi, no, lo voglio anch'io. La pausa, bravo, allora dico solo l'ultima cosa che devo fare. Allora, da un certo punto di vista, tutti gli antropologi che vi ho citato sino a questo, come dire, la componente maggioritaria dell'antropologia nella prima fase è stata universalista, tutti sono universalisti, tutti quelli che vi ho detto sinora, cioè Malinowski, forse Boas, no, ma infatti su Boas sono delle cose di sopra sulla questione del linguaggio, però ne parliamo una volta prossima. Diciamo lo sviluppo e il rafforzamento di un punto di vista, diciamo, relativista o se preferite pluralista all'interno dell'antropologia è relativamente recente, è soltanto negli ultimi 30 anni, 40 anni che si è fatto strada, più perché in tutta la, ma quello si vede in tutte le scienze, quando nascono, tutte le nuove discipline quando nascono tendono a essere totalitarie, universali, eccetera eccetera. La cosa adesso però veniamo al punto, la ragione importante per cui uno come Lévi-Strauss è così fondamentale è che Lévi-Strauss è uno dei più accaniti universalisti nella storia dell'antropologia, però è molto innovatore, perché il colpo direi che dà Lévi-Strauss è totalmente universale. L'universalismo virgolette classico di Taylor, di Malinowski, di Ivan Pritchard, di Lethbridge Brown, anche poi di Margaret, insomma di tutti quelli che vi ho detto, di quelli che non vi ho detto in genere, è un universalismo dei contenuti. Cioè, loro dicono, c'è qualcosa che caratterizza tutte le culture umane, eccetera, eccetera, e questo qualche cosa è un punto di vista specifico sul mondo, eh? Un principio. Facciamo un esempio, prendiamo Freud, che non è un antropologo, ma evidentemente ha dato molta. Allora, Freud è ovviamente un universalista nel campo della psicologia. Allora, Freud ha detto, ci sono alcuni universali della psicologia. Questi universali quali sono? Uno, il tabù dell'incesto. Due, il conflitto padre-figlio per il possesso della madre. Cioè, quattro, poche cose, no? Questo è un tipico esempio di universale a livello dei contenuti psichici. Lui prende i contenuti psichici e dice, questi contenuti sono presenti in tutte le menti umane, in tutte le menti di tutti gli uomini, di tutte le epoche e di tutte le età. Idem, il relativista diciamo, contenutistico, l'universalista contenutistico dirà, ci sono per esempio, l'universalismo di Malinowski si basa su questo principio metodologico. Le strutture sociali sono la realizzazione di certe funzioni. Le strutture sociali non nascono altro che per realizzare delle funzioni. Ok? Non ve la faccio lunga, anche se sono stanchi tutti, però voglio chiudere perché se non arrivo a chiudere, non ve la faccio lunga e quindi non vi articolo in maniera troppo precisa quali sono i punti deboli di questa cosa, però è facile, i punti deboli di questa cosa sono esattamente come i punti deboli della psicanalisi freudiana o della psicanalisi jungiana che diciamo, gli universali di Jung sono diversi da quelli di Freud, ma sono Jung è altrettanto universalista di Freud. Jung li chiama gli archetipi, Freud li chiama le due o tre leggi, sono poi diverse da quelle stesse. Il punto debole qual è? Il punto debole, il punto debole è che tutti questi universali, sia per Freud che per Jung, che per Malinowski, sono troppo precisi. Sono proprio nel caso della cortonetta tra struttura e funzione in Malinowski è evidente che è una generalizzazione di un principio della cultura occidentale e della cultura occidentale moderna, perché neanche i greci ce l'avevano. È ovvio che la cultura occidentale moderna si basa su una relazione binaria stretta tra forme, tra funzione e diciamo struttura. Ma basta un rapido esame di qualsiasi altra cultura che non sia quella occidentale e ci rendiamo conto che questo parallelismo così stretto tra funzione e struttura è per noi, ma non è detto che debba essere, ci possono essere società basate sul modo di costruire la struttura ben diciamo diverse. Ora, nel momento in cui chiamiamolo questo universalismo ingenuo, io lo chiamo così, ingenuo o contenutistico, poteva essere messo in crisi, è arrivato un vero e proprio genio che si è chiamato Claude Lévi-Strauss, genio, spero sia chiaro, io non sono affatto d'accordo con le tesi di Lévi-Strauss, però riconosco che lui ha dato una lettura così diversa che è riuscito a situare i contenuti dei pretesi universali antropologici su un terreno così nuovo che ha obiettivamente parzialmente salvato temporaneamente, perché è andato in crisi lo stesso poi, ma perlomeno era, e poi all'interno di questa cosa ci ha dato una serie di cose evidentemente interessanti che se non avesse fatto questa operazione non avrebbe fatto. Facciamo la pausa che siamo stanchi tutti.